E questo è il nostro pezzo Evergreen. Eh? Evergreen. Ah. Io sono misteriosa, lo faccio per posa, e quando cammino domanda incredula che si dipingono dentro lo sguardo degli ammiratori. Sempre la solita storia di tutte le volte che indosso dei fiori. Camele, magnole, non ti scordar di me. Gladioli, narcisi, violette, panse. Camele, magnole, non ti scordar di me. Gladioli, narcisi, violette, panse. Che bevendo e fumando non penso al domani. Cos'è? Ua! Casetta, marito, non voglio perché. Ricamo, cucito, non fanno per me. I bagni, di sole, il cinema d'essere. Riviste, di moda e pietà col te. Di gusto non si discute. Gelato, flambè. Holiday.